e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Cuore e Denari, che oggi mi vede in solitaria. Nicoletta Carbone torna naturalmente domani. Ci capita ogni tanto di essere un po' in solitudine nella conduzione del nostro programma, ci alterniamo per tutta una serie di impegni. Detto questo, oggi abbiamo tanta carne al fuoco, come sempre parleremo di molti argomenti interessanti e con nostra grande soddisfazione tutti argomenti che trovano sempre la vostra soddisfazione, e naturalmente torneremo a parlare di mercati finanziari. Fra un po' vi do l'aggiornamento di borsa, perché questo effetto elezioni americane sta continuando ed è un effetto sorprendente, esattamente come l'elezione del 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Torneremo a parlare di terremoto questa mattina, per la modalità con cui i pediatri suggeriscono di spiegare queste dinamiche ai bambini. Parleremo della sicurezza in casa per gli anziani, e poi oggi, lo sapete bene, è giovedì, torna la nostra rubrica Investire in Formazione. Oggi una puntata molto articolata, perché vi racconteremo per esempio l'attività del Museo del Risparmio di Torino, vi forniremo una guida all'investimento consapevole e poi naturalmente monitoreremo con un esperto anche questa giornata finanziaria che adesso vi andiamo subito a raccontare. Giornata di nuovo largamente positiva sui mercati finanziari, con il FTSE MIB che guadagna l'1,83%. In questo momento Piazza Affari è di gran lunga la miglior piazza d'Europa. Ieri sono state molto positive le altre. Ieri Milano ha chiuso leggermente in negativo, ma era sicuramente una prestazione negativa trascurabile rispetto alle preaperture, con l'effetto sorpresa che abbiamo raccontato in lungo e largo ieri dell'elezione di Donald Trump alla presidenza appunto degli Stati Uniti d'America. Parigi guadagna un punto, Francoforte più 0,8%, Londra più 0,9%, a Milano hanno spiccato il volo di nuovo tutti i titoli bancari, recupera Fiat dopo il calo di ieri, abbiamo più 6 punti per il Banco Popolare, Fiat Chrysler, Pop Milano, Unicredit che oggi individua il potenziale acquirente della divisione del risparmio gestito Pioneer, Yux Net-a-Porter più 4,8%, Intesa San Paolo più 3,8%, e sono largamente positivi con rialzi superiori ai 3 punti tutti gli altri bancari. In negativo abbiamo pochi titoli, quelli difensivi: A2A meno 1, Terna meno 0,8, Italgas meno 0,7, Enel meno 0,7%, l'euro a 1,09,06%. Abbiamo avuto uno spettacolare rialzo questa mattina della borsa giapponese, progresso di quasi 7 punti, e paradossalmente ieri, dopo tutta l'incertezza e addirittura il preannunciato panico sui mercati, Wall Street ha chiuso in positivo, Dow Jones più 1,40, con appunto questo paniere che si è portato vicino ai suoi massimi storici. Ma torniamo adesso, dopo la borsa, sulla quale torneremo nel corso della trasmissione, torniamo invece a casa nostra, perché quella che era una potenziale emergenza borsa non si è creata, ma ci sono invece delle emergenze che non possiamo o dobbiamo dimenticare. Allora, abbiamo un problema tecnico, ve lo dico, volevamo proporvi una dichiarazione recente del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, nel corso di un incontro di lunedì scorso che ha visto appunto riunirsi alla Camera 650 sindaci. Noi volevamo partire da qui per tornare a parlare di terremoto, perché come spesso diciamo con Nicoletta non dobbiamo abbassare la guardia, anche perché si continuano a registrare nuove scosse. Donald Trump in questi giorni ha fatto un pochino sparire dalle prime pagine dei giornali e anche dai principali titoli dei telegiornali le vicende legate al sisma del centro Italia, ma noi invece continuiamo a starci e vorremmo anche provare a mettere in piedi con Nicoletta Carbone, ve lo diremo magari più avanti, un progetto di monitoraggio costante sullo stato di salute di quest'area devastata anche dal punto di vista economico. Ma a parte questo, la macchina dei soccorsi è continuamente al lavoro. Si tratta di un team di soccorritori costituito da diverse professionalità che si è mosso in un'unica direzione, quella di salvaguardare quanti hanno perso tutto. In aiuto dei terremotati, lo sapete bene, sono scesi in campo medici, infermieri, operatori del 118, della protezione civile, che ha riattivato peraltro la raccolta di fondi attraverso il suo numero, Croce Rossa, forze dell'ordine, enti locali, sistema sanitario nazionale, organizzazioni di volontariato, vigili del fuoco, militari, polizia, educatori e medici. Di questo elenco fanno ovviamente parte anche i pediatri e proprio la SIPS, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, ha elaborato delle indicazioni pratiche per stare al fianco dei più piccoli, per parlare con loro di terremoto, perché anche i bambini, a parte quelli colpiti, ma anche quelli non colpiti, che continuano ad essere invece molto impressionati dalle immagini che vedono continuamente scorrere in televisione, tenendo presente appunto che ognuno di loro ha una sensibilità e un vissuto proprio, quindi raccoglie diversamente appunto queste situazioni. Noi oggi ne parliamo col dottor Piercarlo Salari, pediatra a Milano, responsabile del gruppo di lavoro per il sostegno alla genitorialità SIPS. Dottore, buongiorno, benvenuto e grazie. Buongiorno Deborah e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, l'obiettivo di queste indicazioni che avete formulato è quello di sostenere i genitori che a loro volta devono aiutare i figli a riprendersi. Come mai avete pensato a questa lista di raccomandazioni, dottore? Certo, abbiamo cercato di identificare gli aspetti essenziali, i consigli che oltretutto tornano utili anche ai colleghi pediatri impegnati in quei territori. I bambini hanno bisogno di particolare sostegno proprio perché di fronte a queste emergenze si sentono spaesati e soprattutto perdono quelli che sono i loro punti di riferimento non soltanto geografici, ma se vogliamo anche familiari, umani, relazionali. Ecco perché è importante cercare di mantenere il più possibile un clima di serenità e di supporto a questi piccoli che purtroppo patiscono, certo, anche le continue scosse che si stanno verificando. Chissà che fatica, dottore, a trovare le parole giuste per spiegare tutto ciò quando in prima persona si avverte una paura enorme, no, nel gestire. Io le posso raccontare in via personale cosa ha fatto mia sorella. Noi siamo di Ancona, mia sorella ha 3 bambini piccoli e nelle giornate delle scosse più intense ovviamente doveva gestire anche l'emotività dei bambini che si sono spaventati. Alla intermedia, alla secondogenita, ha mostrato il filmato della protezione civile, civilino, quindi si sono un po' anche, come dire, organizzate in questo modo, perché usare un linguaggio giusto è molto importante in questi frangenti, dottore. Certamente, i bambini trovano nei genitori il loro modello di riferimento sotto tutti i profili, soprattutto quello comportamentale. Le parole giuste devono essere trovate in funzione della fascia d'età e anche dell'esigenza del singolo bambino. Ai più piccoli, per esempio, si può ricorrere a un linguaggio più di fantasia. I più grandi possono avere anche la necessità di capire cosa sta realmente succedendo nel territorio e d'altra parte il terremoto, come tutte le catastrofi naturali, offrono se vogliamo anche l'opportunità di capire meglio l'ambiente, di rispettarlo e di partecipare poi a quello che è l'impegno collettivo che sarà la ricostruzione. Quindi è giusto cercare di capire l'esigenza del bambino e adeguarsi a quello che è il suo livello, certo, e la sua esigenza di conoscenza. Dottore, molto spesso il bambino non fa domande particolarmente articolate e complesse, ma le sintetizza tutte in una. Perché? Perché accade questo? Davanti ad una domanda di questo tipo, nella sua semplicità disarmante, un genitore come deve reagire? Innanzitutto non deve lasciarsi prendere dal panico. Purtroppo i genitori hanno questo compito doppiamente gravoso, perché devono rassicurare, devono dare certezze, devono in qualche modo essere pronti a rispondere. Quindi il bambino molte volte si domanda perché, e tende spesso a ripetere anche lo stesso quesito, e il genitore deve cercare di manifestare la maggior serenità possibile e guardare al futuro, cercare sempre di prospettare gli aspetti positivi, quello che sarà il futuro, la scuola che sarà ricostruita, la casa che sarà più bella, anche come dire, gli aspetti positivi, se vogliamo, della vita contestuale, la maggiore aggregazione, la condivisione di tanti momenti con gli altri coetanei. L'atteggiamento deve essere sempre molto molto positivo e mai cedere, uh-huh, insomma, alla disperazione e soprattutto evitare anche il più possibile di fare riferimento a tutti quegli aspetti più drammatici che purtroppo la televisione ci mostra ogni giorno. Certo. Allora, di fronte ad un bambino che magari chiede spiegazioni, ce n'è anche un altro che invece magari non dice nulla e somatizza, dottor Salari, tiene dentro di sé tutte le emozioni e tutte le domande. Di fronte alla percezione di un genitore di avere a che fare con un bambino di questo tipo, che come si deve sostenere? Beh, il bambino va aiutato a esprimersi, quindi giustamente come diceva c'è quello che fa tante domande spesso anche ripetitive, c'è quello che invece rimane in silenzio. Il bambino deve essere aiutato a tradurre in parole le proprie emozioni in maniera anche semplice. Ci sono tanti strumenti, le storie, la musica, attività rilassanti, ma soprattutto il disegno. Attraverso il disegno i bambini esprimono quello che provano in quel momento e possono anche tradire una serie di ansie, di paure che covano. Quindi il fatto di aiutarli a esprimersi e trovare il loro modo per esternare, insomma, i sentimenti può essere senz'altro di aiuto sia per supportare il bambino ma anche per capire come sta elaborando, certo, diciamo, questa situazione. Possono anche comparire eventuali disturbi, dal mal di testa, mal di pancia, dolori diffusi, il sonno disturbato, sonno. Esatto. Quindi certo, come si affronta questo? Per cui spesso un disturbo del sonno, un sonno frammentario è diciamo un'espressione indiretta di uno stato di disagio, e quindi il fatto di instaurare per esempio dei rituali della nanna nei più piccoli o cercare di parlare il più possibile, insomma di essere rassicuranti, può insomma dare effetti positivi anche, certo, per quello che riguarda il ritmo sonno-veglia. Dottor Solari, per trovare le vostre raccomandazioni, consigli utili per parlare ai bambini del terremoto, possiamo andare sul sito di SIPS? Sì, nel sito nostro istituzionale si ritrovano tutti i comunicati stampa e anche i documenti che noi pubblichiamo sia a livello scientifico sia per le famiglie. Benissimo, quindi invito i nostri ascoltatori, i genitori preoccupati di spiegare ai loro bambini questo momento delicato, li trovate appunto tutte queste raccomandazioni sul sito della SIPS. Grazie dottor Solari. Grazie, buona giornata e buona buon lavoro e complimenti. Grazie per il vostro lavoro. Ci fermiamo, il traffico a tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e Denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Scomodiamo questa canzone ogni qualvolta parliamo di casa, lo facciamo per il mutuo, per la fiscalità, per le ristrutturazioni. Oggi l'abbiamo scelta invece per parlare di un altro argomento. Passiamo dai più piccoli a chi piccolo non lo è più. Parliamo di un progetto dell'associazione Abitare e Anziani che vuole migliorare la condizione abitativa degli anziani nel nostro paese. La vita media si allunga diverse volte, anche qui a Cuore e Denari lo sapete bene, abbiamo parlato di longevità. Un tema che tra l'altro, faccio questo inciso necessario oggi, molto caro al professor Umberto Veronesi. Oggi a Palazzo Marino è allestita in Sala Alessi la Camera Ardente, domani ci saranno i funerali laici, proprio domani con Nicoletta, quindi segnatevi sulla vostra agenda questo appuntamento. Faremo una puntata speciale, tutta speciale, per dare insieme l'ultimo saluto al professore Veronesi. Nel frattempo vi ringraziamo anche per i tantissimi messaggi che state scrivendo, state animando e non poco la nostra pagina sul sito di Radio 24, la potete raggiungere anche su Facebook che abbiamo organizzato proprio per raccogliere tutti i vostri ricordi del professor Umberto Veronesi, tutte le vostre storie che sono preziose e molto toccanti e magari domani le condivideremo appunto tutte insieme. Tornando al tema che invece vi ho anticipato, intanto vi presento l'ospite che abbiamo con noi, Marco Di Luccio, presidente di Abitare e Anziani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Deborah Rosciani, buongiorno. Eccoci qua. Presidente, allora, per un anziano rimanere nella propria casa significa conservare un minimo di indipendenza e anche di autostima, aggiungerei. Questo può incidere positivamente sullo stato di salute, perché è importante non solo dare anni alla vita, ma anche qualità, no? A questi anni. Allora, in cosa consiste questo vostro progetto che ha anche questo obiettivo, presidente? Cioè, più che un progetto, diciamo che è una ricerca ed è una proposta, sono delle proposte che noi facciamo. Sicuramente bisogna partire da una cosa semplice, che ormai stiamo al 21,4% di italiani che hanno più di 65 anni e una parte consistente di questo 21,5%, l'8%, stiamo sopra i 75 e gli 80 anni. Quindi eh sì, perché dobbiamo anche fare attenzione, perché c'è qualche over 65enne che si offende un po' ad essere definito anziano, eh? Di Luccio. Sì, però questo, le statistiche esatto, però, questo lo definiscono così. Poi uno può anche usare altri termini, no? Come diversamente giovani. Era una battuta, però qualche volta... Sì, lo dice un soggetto che ne ha fatti 66, quindi come dice, partecipa della comitiva, ma come dire, se detto giustamente può essere dispregiativo, ma insomma noi non lo usiamo certamente. No, assolutamente, non intendevo quindi. Dispregiativi, e riteniamo assolutamente positivo che c'è un allungamento della vita e la popolazione, l'invecchiamento della popolazione non va inteso come una disgrazia, ma va inteso come una conquista di civiltà che è dovuta all'avanzamento della scienza, della capacità di vita e di cura delle persone. Comunque queste persone che oggi sono il 21,5%, ma di qui a 20 anni raggiungeranno il 30% della popolazione, bisognerà porsi la domanda di come funziona la nostra vita, funzionano le nostre comunità, funzionano il nostro modo di abitare in questo ambito. Questo è il ragionamento che noi tentiamo di fare, certo. Sapendo che da un'indagine che noi abbiamo fatto, in Italia circa l'80% degli over 65, così non si offende nessuno, vive in casa di proprietà o da solo o insieme a familiari, eccetera. Quindi non c'è tanto un problema di avere la casa, perché la casa c'è, e diciamo che un terzo di questo 80% che vive in casa di proprietà di over 65 vive da solo, cioè ha una sua specifica situazione. Certo. Allora andiamo alle vostre raccomandazioni di Lucio, la vostra lista di precauzioni che avete appunto distribuito anche grazie al lavoro che avete fatto in questa ricerca, rivolte agli anziani appunto per vivere serenamente in casa. Ci sono tante raccomandazioni di buonsenso, io perché conosco i nostri ascoltatori e qualcuno dirà è logico che è bene stare attenti in cucina, attenzione a non lasciare attivi i fornelli, attenzione alle porte, eccetera. Detto questo, in realtà ci sono molte cose alle quali non si pensa, per cui anche nella, a volte non dico banalità, ma nell'idea che siano raccomandazioni di buonsenso alle quali tutti possiamo arrivare, in realtà molte cose non arriviamo. Ci fa appunto questa lista di Lucio per capire... La lista sarebbe lunga. Molto lunga, però proviamo a vedere, sintetizziamola, perché abbiamo 2 minuti e mezzo, così almeno La prima priorità è il dove si abita. Nel senso che noi dobbiamo considerare che il nostro patrimonio e la nostra residenzialità in Italia spesso è fatta di case molto vecchie, la media di case che sono costruite da 50 anni e più, pensiamo soprattutto nei piccoli centri, e che quindi hanno una strutturazione e una concezione della casa un po' diversa dai criteri moderni, e quindi spesso e volentieri sono due elementi che riguardano, due o tre elementi che riguardano gli anziani: le barriere interne alla casa, soprattutto per chi ha una ridotta deambulazione, come si arriva alla casa, perché spesso abbiamo case senza ascensore e in qualche caso anche con una carenza dal punto di vista del riscaldamento. Ora, su queste tre cose è fondamentale fare attenzione, ma non sarebbe giusto immaginare che ognuno fa da sé. Perché immaginiamo che in un palazzo, pensiamo a Roma, a Milano, a questi grandi centri dove ci sono i palazzi con 7, 8, 9 piani, costruirsi un ascensore da solo significherebbe impegnare delle risorse che non si hanno spesso. Ecco. Sì, o siamo tutti miliardari e allora la discussione è chiusa. Non può, e quindi andando alla sintesi, abbiamo un minuto di Lucio? Significa che le comunità, le autorità politiche, i proprietari di vasti patrimoni immobiliari pubblici, pensiamo agli enti di previdenza e quant'altro, devono cominciare a pensare a come si valorizza il patrimonio immobiliare, perché è una valorizzazione, non è uno sperpero, per dare risposte a queste cose in un ambito in cui da qui al prossimo futuro, certo, bisognerà concepire anche un modo diverso di vivere la comunità. Esatto, e di vivere, di costruire le nuove abitazioni pensando che chi le abita naturalmente invecchia. Grazie a Marco Di Lucio, presidente di Abitare e Anziani, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo il nostro giornale radio, poi torniamo insieme con una lunga puntata oggi speciale anche di Investire Informati, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Sono le 11.10, ben ritrovati a tutti da Deborah Rosciani a Cuore e Denari. Oggi è giovedì, sapete bene qual è l'appuntamento che vi aspetta in questa giornata della settimana. Però prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, vi voglio ricordare con grande insistenza che si sta avvicinando il 18 novembre. Noi vi aspettiamo per venerdì della prossima settimana con Investire Informati Live. Allora veniteci a trovare qui a Milano al Sole 24 Ore, ingresso libero, previo accreditamento appunto sul forum del nostro evento. Lo trovate sul sito di Radio 24, lo stiamo veicolando in ogni modo con i nostri social network. Cosa faremo? Sapete che da oltre un anno e mezzo stiamo andando avanti ogni giovedì con Investire Informati. Abbiamo messo insieme una squadra di società di gestione del risparmio e di interlocutori nell'industria finanziaria per raccontarvi e spiegarvi i fatti finanziari, cosa è cambiato in questo anno e mezzo così complesso, anche se in realtà stiamo vivendo anni complessi da un bel po' di tempo. Abbiamo provato a spiegarvi come si sta muovendo l'industria del risparmio, quali sono le nuove proposte, che cosa si sta facendo nel campo dell'educazione finanziaria. Venerdì prossimo provvederemo a capitalizzare questo tesoro. Ci saranno appunto tutti gli interlocutori che si sono avvicendati nelle varie puntate di Investire Informati, per cui ci teniamo molto che ci siate anche voi. Accreditatevi, andate sul sito, parleremo di tante cose interessanti per cui non ne potete mancare, perché naturalmente per fare questo lavoro abbiamo tenuto conto anche di tutti i vostri suggerimenti. Detto questo, che è stata la nostra più importante, la principale informazione di servizio di oggi, andiamo invece al cuore della puntata. Abbiamo archiviato le elezioni americane, ma relativamente, perché in realtà i mercati si stanno ancora muovendo in maniera significativa di conseguenza. A questo punto aspettiamo la prossima fatidica data del 4 dicembre, referendum italiano. Questi sono i temi che hanno dato impulso ai mercati appunto proprio nelle settimane recenti, e noi siccome di mercati abbiamo parlato tanto, per questo giovedì abbiamo, oltre a questo, deciso anche di prenderci, se volete, una piccola pausa e di tornare sui temi della divulgazione finanziaria in senso stretto. Oggi faremo, insieme ad un commento sui mercati, anche altri due focus molto speciali. Uno sull'investimento consapevole, uno sulla finanza e le differenze di genere. Esistono delle differenze fra uomo e donna quando si parla di conoscenze finanziarie? Lo scopriremo stamattina. Investire informati. Allora, tutta l'interrogazione sull'andamento dei mercati finanziari in questa nuova era Trump sarà a carico di Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation. Buongiorno e ben ritrovata, grazie. Buongiorno a voi. Che ci ha aiutato anche in realtà in questa iniziativa di Investire Informati, appunto a portare a beneficio dei nostri ascoltatori il percorso che sta facendo il disegno di legge sull'educazione finanziaria, e anche di questo parleremo venerdì prossimo ad Investire Informati, perché sarà con noi proprio l'onorevole Bernardo, che è il relatore appunto di questo provvedimento. Lui ci ha promesso che peraltro vedrà la luce a dicembre. Claudia, lei ne sa qualcosa? Secondo lei lo portiamo a casa questo risultato entro la fine dell'anno? È tutto congelato adesso? Proprio in virtù delle attese per il referendum, ma secondo lei pregiudicherà il risultato elettorale anche il percorso di questo provvedimento che noi aspettiamo tanto? Non credo proprio, perché ne abbiamo bisogno, quindi ecco. Penso che entro fine dicembre dovrebbe passare regolarmente. Lo solleciteremo caldamente appunto anche venerdì prossimo qui a Milano. Poi è con noi questa mattina Marco Parlangeli del Consiglio di Amministrazione Global Thinking Foundation. Parlangeli, dottor Parlangeli, ha anche un blog dove sta costruendo una guida all'investimento efficiente e consapevole per un pubblico non professionale. Come si chiama il suo blog? Mi viene Globe stamattina, già sappiate che tutta la puntata sarà così. Il suo blog come si chiama? Buongiorno, si chiama marcoparlangeli.com. Ecco, quindi proprio con il suo nome, tra parentesi c'è anche scritto, se non ho visto male, best is yet to come. Assolutamente. Lo diceva Barack Obama, però. Va bene, siamo un po' demodé ogni tanto. Poi saluto e ringrazio per averci raggiunto qui a Milano Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio di Torino. Benvenuta. Grazie mille. Fa anche l'economista, in realtà non fa solamente la direttrice del Museo del Risparmio, e per cui anche magari da parte sua mi piacerebbe capire cosa ne pensa di questi scenari finanziari nuovi in questa nuova era anche americana. E poi con la dottoressa Paladino invece faremo un punto su questo bel lavoro che hanno fatto al Museo del Risparmio, oltre alle tantissime cose che fate, sulla finanza di genere, perché appunto pare sempre più dimostrato che ci sia proprio un approccio diverso nei confronti del mondo della finanza fra uomo e donna, uno spread, una differenza di genere appunto che va analizzata e colta e raccolta. Allora, tanti argomenti, dunque 800 24 00 24, se volete interagire con noi questa mattina. Fra un po' vi spiegherò anche come potete guadagnarvi, se volete, il glossario di educazione finanziaria che è stato proprio elaborato dalla Global Thinking Foundation. Le parole di economia e finanza, in collaborazione con Maurizio Bernardo, che è il presidente della Sesta Commissione Finanze della Camera dei Deputati, lo abbiamo citato poco fa, noi lo abbiamo a disposizione, fra un po' vi racconterò come potete guadagnarvelo se volete dare un'occhiata. Prima di tutto, Claudia Segre, mercati finanziari oggi di nuovo molto positivi. Ieri la seduta era partita malissimo, qualcuno annunciava, quando è stato chiaro il risultato elettorale, una nuova seduta da panico, che c'è stata, ma in realtà non da panico, però insomma piuttosto negativa, soprattutto in Asia. L'Europa nel giro di poche ore ha assorbito questa sorpresa politica per chiudere la seduta in positivo. Wall Street sul Dow Jones ha toccato quasi il suo record storico. Stamattina seduta euforica in Giappone, più 7% per il Nikkei, la borsa in Europa guadagna tutta. Leggo dai giornali stamattina che gli investitori ne approfittano per fare la famosa rotazione settoriale, puntare su quei titoli che forse da un pochino erano trascurati. Il cemento, le costruzioni, la difesa, l'aeronautica, l'ambito farmaceutico. Che cosa ci dice di quello che stiamo vedendo sui giornali, sui mercati in questi giorni? Ma è che abbiamo, al di là dell'insediamento del 20 gennaio, abbiamo primi 100 giorni di questo nuovo mandato che sono estremamente interessanti. Dietro i toni pacati e moderati che abbiamo avuto nel discorso di insediamento, pare che ci sia una donna fondamentalmente che guidi le parole di Trump, che è la figlia Ivanka. Al di là di questo, è una figura molto forte all'interno del partito. Detto questo, sicuramente oggi i mercati asiatici hanno festeggiato le aspettative sul nuovo piano delle infrastrutture, le decisioni fiscali che verranno prese, addirittura le commodities hanno reagito con il rame in testa a questa nuova opportunità in termini di investimenti infrastrutturali. Ricordiamo che col debito americano non si scherza, e quindi la necessità di affrancare una crescita in maniera più solida è un punto fondamentale, quindi tornare alla politica interna in una maniera fattiva si può fare se si manterranno questa moderazione. Il grosso nodo rimane quello della guerra commerciale, quindi il rischio di innescare una guerra commerciale con la Cina, che detiene parecchi treasury americani peraltro, e all'interno dei due accordi del NAFTA e del TTIP asiatico. Però anche qui sarà proprio come sarà formata la compagine dell'amministrazione che aiuterà i mercati, guiderà i mercati nel prosieguo di questa reazione che per adesso abbiamo detto estremamente pacata e riflessiva. Certo. Perché secondo lei questa reazione è stata più pacata e riflessiva rispetto a quanto non sia accaduto il 24 giugno, il 25 giugno dopo la Brexit, e qui invece la reazione dei mercati è stata decisamente violenta? La sorpresa è stata a pari, perché esattamente come non ci aspettavamo la Brexit, non ci si aspettava, perché tutto sommato va ammesso, appunto l'elezione di Donald Trump. Ma qui direi la grossa differenza sta nel fatto, prima di tutto, che la Gran Bretagna rischia un isolamento e immediatamente è stata colpita da un downgrading che gli ha fatto perdere la AAA dalle invece peraltro Standard & Poor's stamattina ha confermato il giudizio sugli Stati Uniti. Esatto, sì. Quindi questa direi la prima differenza. Gli americani non sono assolutamente isolati, anzi quello che ha riportato il Trump è il discorso del sogno americano, e l'ha riportato in maniera forte, anche di un consenso che peraltro gli ha permesso di poter portare avanti un certo tipo di programma. Quindi secondo me opportunisticamente anche i movimenti valutari sono stati utilizzati per rientrare su diverse valute legate alla commodities come il dollaro australiano, il dollaro neozelandese, thailandese che ha perso molto, il peso messicano che ha reagito con una perdita iniziale del 13%, quindi non ci sarà nessun muro in Messico, non ci sarà una rottura del NAFTA, sicuramente le rinegoziazioni aiuteranno forse l'America a rafforzarsi ulteriormente se Trump prenderà le misure delle sue azioni. Allora, magari al piccolo risparmiatore che può ascoltare in questo momento Investire Informati, più che interessare la figura di Trump, la sua politica economica, come imposterà diversamente o meno le relazioni appunto internazionali dal punto di vista commerciale, forse al piccolo risparmiatore interessa cosa succederà sui tassi di interesse. Le politiche monetarie saranno un'altra variabile assolutamente rilevante nei prossimi mesi, e qua già sono partite le scommesse sulla prossima azione della Federal Reserve in dicembre. Ieri vedevo che il consensus era già più o meno spaccato a metà: c'è chi è assolutamente convinto che tutto rimane come nella condizione attuale, c'è chi invece sostiene che come nei pronostici un intervento Janet Yellen lo farà in dicembre. Lei che cosa crede? Soprattutto pensa che questa era repubblicana andrà anche un po' a condizionare l'indipendenza della Federal Reserve, perché vedo tanti commenti sui giornali di stamattina anche a questo proposito, e dovremo preoccuparcene? Ma direi che immediatamente dall'entourage di Trump è arrivata una rassicurazione da questo punto di vista, che è stata raccolta anche dai membri Fed che hanno parlato sia ieri che nei giorni passati, ma soprattutto ieri le dichiarazioni sono state chiare: si manterrà l'indipendenza banca centrale, altro elemento fondamentale per i mercati per poter percorrere un trend positivo, e quindi la Yellen starà al suo posto. Questi sono i due punti fondamentali: la possibilità di un rialzo dei tassi e le anche ai dati dei prossimi giorni, è scesa certamente dall'80% a cui era data al 60%, quindi ancora è nelle carte un possibile rialzo di 25 basis point. Allora, intanto sto guardando un po' così con curiosità i primi messaggi che stanno arrivando da parte degli ascoltatori con un po' di colore. Lorenzo ci scrive: legare la borsa al referendum è un modo come un altro per condizionare il voto. Lorenzo, mi pare proprio di no, perché anche nei giorni passati appunto abbiamo più volte attribuito il rialzo della borsa americana alla potenziale elezione di Hillary Clinton, in molti sposavano appunto esattamente questi due fattori, poi in realtà le cose sono andate in maniera diversa, per cui... Secre, che ne pensa? Sì. Ma io dico solo, ci sono due aspetti. C'è un aspetto che è borsistico, economico e finanziario, che sono due case di rating che hanno detto chiaramente che se dovesse uscire un esito negativo... ovviamente seguiranno quello che è l'esito di un outlook negativo che pende sull'Italia e faranno un downgrading. Questo è purtroppo la realtà, quindi dobbiamo aspettarci una volatilità dello spread, che anche in questo caso potrebbe rientrare rapidamente se non dovesse cadere il governo. Però è inevitabile che queste due variabili, variabile politica e mercati, siano legati, e che purtroppo le case di rating dettino, come abbiamo detto, tra Brexit e America le loro leggi. Poi se qualcuno crede ancora alle agenzie di rating o ci crede di meno, questo è un altro problema, perché questo è un altro grande argomento di discussione. Detto questo, poi ci sono degli automatismi che si creano. Allora, ho fatto tutto questo preambolo sulla giornata, sui mercati finanziari, su quest'euro, sui mercati finanziari, perché sono temi che interessano i nostri ascoltatori, visto che diversificano il portafoglio, almeno molto spesso suggeriamo loro di farlo, di non concentrare il loro portafoglio, quindi guardano a quello che succede sui mercati finanziari. Allora, dottor Parlangeli, ricordo anche un po' quella che è stata la sua esperienza: è stato direttore generale della Fondazione MPS, ha una lunga militanza nei board di enti no profit, in organismi associativi delle fondazioni europee, già presidente dello European Foundation Center di Bruxelles. Allora, nel suo lavoro di divulgazione, intanto che cosa ha scoperto a proposito delle strategie di investimento adottate dalle famiglie italiane? Quanto sono condizionate, secondo lei, da tutti questi fattori che continuiamo noi ad analizzare in ogni modo, per spiegare loro che non possono trascurare anche eventi politici di portata così importante, perché magari anche quando fatti finanziari di un certo peso accadono molto lontani da noi, poi ce li ritroviamo nel nostro portafoglio nel giro di pochissimo. Io su questo concetto cerco di insistere sempre molto, perché in questi ultimi anni lo abbiamo visto ripetutamente. Insomma, lei nelle sue indagini cosa ha scoperto? Ma intanto è evidente, secondo me, il bisogno di una migliore cultura finanziaria, che dovrebbe diventare un patrimonio diffuso e comune per tutti i cittadini consapevoli. E per questo condivido lo sforzo di Claudia Segre e di Global Thinking Foundation al quale cerco anche di apportare il mio contributo. La cosa che più mi ha colpito è proprio la mancanza di una strategia. Molto spesso la gestione del portafoglio è vista come una necessaria ma fastidiosa incombenza che si preferisce delegare ad altri, no? Le consulenti, banche, eccetera. Altre volte invece è una semplice operazione di acquisto che una volta decisa si mette da parte e non ci si pensa più, salvo poi talvolta accorgersi di qualche brutta sorpresa, qualche risveglio non bellissimo. Io dico sempre, insomma, il mutuo subprime era l'ultimo dei nostri problemi tra il 2007 e il 2008, poi invece si è catapultato quel problema là nel mio mutuo nel giro di un anno e mezzo, per cui da lì l'invito a non trascurare quello che avviene anche dall'altro capo del mondo. Parlangeli. Assolutamente. Ecco, l'approccio normalmente è quello più usuale, ma è quello che io contesto è del tipo: io ho una certa somma da investire, cosa ci compro? Esatto, poi si va in banca e si dice: quanto mi dai? Ecco, molto... quanto mi rende. Allora, il mio messaggio in questo blog vuole essere un vero e proprio strumento di servizio, è invece che la decisione debba essere il risultato di una riflessione seria su tutto il patrimonio, sulla nostra propensione al rischio, sui nostri obiettivi, sui progetti di vita e, perché no, anche sui sogni. Ecco, sarei felice se i miei lettori imparassero questo tipo di approccio, distinguendo fra strategia e tattica, certo, e utilizzando i consulenti solo per le, ahimè, necessarie informazioni tecniche di dettaglio. In questo senso, ecco, l'obiettivo lo considero... Non è comunque un invito al fai da te. Assolutamente, nel suo blog, ecco, assolutamente no, appunto è però un invito ad essere più consapevoli, certo, perché ecco, in questo senso io penso che possiamo considerarlo un po' complementare all'obiettivo di Global Thinking Foundation, come abbiamo detto più volte, impegnata a diffondere proprio la cultura dell'educazione finanziaria. Tra l'altro, lei per elaborare la sua guida è partito da storie concrete, poi gliele lascio raccontare. Un altro tema che voglio affrontare con lei, magari adesso vorrei sentire anche Giovanna Paladino, ma con lei vorrei affrontare anche il tema della ragione per cui l'italiano ha più una cultura del rendimento rispetto a una cultura di pianificazione finanziaria, è un tema che affrontiamo molto spesso. Quindi, mantenendo in caldo questi due argomenti, vado invece a Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio, che da poche ore avrà anche probabilmente in qualche sala la foto di Donald Trump, non lo so. Ma no, anche no. Anche no, nel senso che noi ci occupiamo dell'educazione finanziaria, esatto, e non delle notizie economiche. Esatto, no, sa perché le ho fatto questa provocazione? Perché io per prima avevo questo pregiudizio, non essendo ancora venuta a vedervi, che questo museo fosse un museo tradizionale, con dei quadri, magari con i dollari e le effigie appunto dei vecchi presidenti americani, le vecchie lire appese nelle vostre sale. Invece non c'è proprio nulla di tutto questo, non perché c'è... è tutto completamente digitale, interattivo. Non c'è assolutamente niente, perché non è un museo storico, quindi noi abbiamo fatto una scelta diversa. È effettivamente un museo dedicato all'educazione finanziaria, che non è solo nozione ma è comportamento, no? Quindi noi puntiamo molto a dire che non è solo un passaggio di informazione. Mi piace questo concetto, cambiamo un po' i nostri paradigmi. L'educazione finanziaria è comportamento, non è nozione. Non è solo nozione, bisogna sapere, ma sapere è una condizione necessaria ma non sufficiente a saper gestire il proprio denaro. Bisogna sperimentare, bisogna acquisire competenze ed esperienze. Per questo è importantissimo, per esempio, canalizzare questa attività in maniera multimediale, permette proprio quello di fare esperienza. Noi abbiamo tantissimi videogiochi, app che gli utenti possono utilizzare per sperimentare lì per lì come gestire il proprio denaro, come pianificare, perché condivido assolutamente, rubo 5 secondi, certo, dalla domanda, condivido assolutamente, gli italiani purtroppo hanno perso l'abitudine a pianificare, che era una cosa che probabilmente i nostri genitori, una generazione, 3 generazioni fa, era normale. Attualmente non pianifica più nessuno neanche le spese domestiche. Questo è uno sbaglio. Quindi non è solo una questione di pianificare l'allocazione del portafoglio, l'allocazione della ricchezza, anche pianificare le proprie spese, perché aiuta a raggiungere gli obiettivi. Quindi aiuta a decidere ciò che è necessario e ciò che non lo è, e quindi aiuta nella decisione del risparmio, che comunque è una decisione intertemporale, che quindi mette a confronto l'oggi con il domani, quindi è una decisione complessa, certo, e se non ci si siede da qualche parte e si mette su un pezzo di carta quello che come vogliamo arrivare, dove vogliamo arrivare, è molto più complicato. Dottoressa Paladino, le nostre nonne questa attitudine ce l'avevano, perché l'abbiamo persa? Ma probabilmente c'è stata un'evoluzione della società, quindi le nostre nonne erano anche molto più alfabetizzate dal punto di vista finanziario di quanto sono le donne adesso, perché le nostre nonne gestivano l'economia della famiglia. Attualmente, se andiamo a vedere tutte le ricerche nazionali e internazionali, solo il 20% delle donne decide in autonomia le spese. Mm-hmm. Mentre gli uomini il 40%. Certo. Questo è un tema che pure affrontiamo nella seconda parte della trasmissione. È anche vero che forse qualche tempo fa era più facile gestire in autonomia la dimensione finanziaria propria e della famiglia, perché avevamo anche uno scenario molto meno complesso di quello attuale. Adesso qualcosa ci è sfuggito di mano anche da questo punto di vista, quindi andare un po' a star dietro a tutto è difficile, non crede? Sì, questo è sicuramente vero, ma il mondo che affrontiamo è questo, quindi dire che è difficile non ci aiuta a risolvere. Esatto, bisogna prendere atto, insomma, fino ai 20-30 anni fa. Pianificare comunque è utile, quindi riuscire a sedersi e a decidere dove si vuole arrivare, in che modo ci si vuole arrivare, in quanto tempo, è fondamentale, altrimenti non si riesce ad arrivare dove vogliamo, insomma. Certo. Allora, il Museo del Risparmio vi aiuta anche in questo. Adesso lo faremo un percorso con Giovanna Paladino di queste sale interattive, appunto, che percorsi ci sono. Sono soprattutto percorsi dedicati ai più giovani, ma molte iniziative anche per noi adulti che ne abbiamo un disperato bisogno. Intanto sono le 11.30, è tempo di raccontarvi ancora una volta cosa succede oggi in borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Una monetina te, una te, una monetina pure te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Le nostre monetine le dobbiamo mettere nel nostro salvadanaio. A proposito di salvadanaio, attenzione, perché tra un po' ci sarà proprio così un'iniziativa speciale per voi qui a Investire Informati su questo argomento. Prima di andare avanti però con Investire Informati, anzi rimaniamo in Investire Informati con una domanda di un ascoltatore, Loris da Monza, che giro a Claudia Segre, nostra esperta di mercati, presidente di Global Thinking Foundation. Loris, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno, mi saluti anche Nicoletta che oggi non c'è. Domani glielo dico, domani non perdete la puntata, perché è una puntata speciale dedicata ad Umberto Veronesi. Certo, andiamo, Loris, certo. Cosa vorrebbe sapere? Questo è il problema, Deborah. È già da un mese e mezzo che vedo che il BTP trentennale e anche di nuova emissione, quello 280, stanno scendendo molto in questi, da un mese e mezzo. Dietro cosa ci può essere, con i posizionamenti, come mai hai toccato i buoni livelli in questi anni, il BTP trentennale, probabilmente non so se entrando il 2,80 per il cinquantennale, quindi si vanno a riposizionare. Grazie Loris, andiamo alla nostra esperta di mercati. Allora, lunghissime scadenze sulle quali ci raccomandiamo sempre con i nostri ascoltatori attenzioni anche a prendere posizione, perché è un mercato pure questo molto volatile, è stato molto legato chiaramente alle politiche monetarie. Loris fa riferimento ad un rasco temporale partito ben prima rispetto alle ultime vicende politiche. Cosa sta succedendo su queste scadenze di titoli di Stato, Segre? Ma allora, come dicevamo, scadenze extra lunghe, molto volatili, quelle più rischiose in assoluto. Nell'ultima asta del 2067, il 2,80% il cinquantennale, forte presenza degli investitori esteri, ma ancora una volta la variabile politica, che da Brexit ha preso, diciamo così, un dominio totale sulla reazione degli investitori, ha fatto sì che molti investitori esteri siano rimasti un po' alla finestra, e soprattutto differentemente da altri paesi dove il cinquantennale è sostenuto definitivamente dai fondi pensione, con iniziative di legge. In questo caso in Italia è tutto molto più ampio e libero, quindi il problema è che le mani forti di fronte all'incidenza di una variabile politica stanno un attimino alla finestra, ed è per questo che questa volatilità proseguirà fino all'esito del referendum. Allora, speriamo di aver accontentato Loris, al quale peraltro leggo anche la prossima domanda che voglio fare a Marco Parlangeli, perché esattamente come indicavamo prima, il risparmiatore italiano ha più una cultura del rendimento. Questo ascoltatore monitora l'andamento del BTP a 30 anni più che della pianificazione finanziaria. Ma insomma, secondo lei abbiamo i presupposti per poter cambiare questa impostazione mentale? Magari qualcuno non la reputa neanche necessaria, questa necessità di cambiamento. Beh, io credo di sì. Secondo me si deve, come si diceva prima, distinguere fra strategia e tattica. Questa è una, diciamo, dei concetti su cui insisto spesso nel mio blog. La prima, la strategia, deve partire da un'analisi delle caratteristiche come investitore, quindi il patrimonio nel suo complesso, delle propensioni, degli obiettivi da un lato e delle tendenze di medio periodo dei mercati dall'altro, e produce poi l'asset allocation strategica, il modello a cui tendere con le scelte di portafoglio. La seconda, invece, quella tattica, consente di correggere le distorsioni del nostro modello e di avvantaggiarsi delle opportunità che si presentano, consentendo di realizzare extra rendimenti o di contenere le perdite nel breve periodo. E qui è il ragionamento che facevamo su cosa succede sui mercati, sull'effetto delle certo, decisioni degli eventi politici. In ogni caso, monitorando il portafoglio con regolarità, che poi, se vogliamo, è proprio quello che fanno i gestori dei grandi patrimoni e i private banker. Allora, direi di andare avanti con la promessa fatta ai nostri ascoltatori. Nonostante la musica del rischia tutto, quello di oggi non è un vero e proprio domandone. E noi vogliamo giocare con voi oggi a colpi di immagine. In occasione della giornata nazionale del risparmio, della giornata mondiale del risparmio, il Museo del Risparmio di Torino, in collaborazione con le Gallerie d'Italia e l'Archivio Storico di Intesa San Paolo, ha promosso nel mese di ottobre l'iniziativa L'Arte del Risparmio, e presso la sede del museo è stata ospitata una mostra di oggetti d'epoca, fra i quali salvadanai, quaderni scolastici, cartoni animati e anche il bozzetto originale del manifesto per la prima giornata mondiale del risparmio, che si è celebrata nel 1925, Il risparmio ci salverà, di Aldo Mazza. Visto che però di oggetti d'epoca, ammettiamolo, in casa ne abbiamo un po' tutti, oppure anche in giro con noi, vi chiediamo di fotografare oggi il vostro oggetto d'epoca o comunque un oggetto particolare, magari un po' unico, legato al risparmio. Un salvadanaio, oppure, se volete, un portamonete, un portafoglio dalla forma particolare, mandateci le vostre foto, le potete postare su Facebook, ce le potete mandare a cuoredenari@radio24.it e noi in cambio vi mandiamo il glossario di educazione finanziaria, parole di economia e finanza. Segre, contenta come lo sto distribuendo questo volume? Assolutamente, ecco. Anche perché la distribuzione inizia dalle scuole, come sappiamo, con copie cartacee e copie digitali, fino, ecco, alle famiglie, quindi un bellissimo inizio, grazie. Benissimo. E invece Giovanna Paladino, Museo del Risparmio, com'è andata questa iniziativa sui salvadanai? Beh, è andata molto bene, in realtà non era solo una mostra, noi abbiamo fatto tantissimi laboratori per i ragazzi e quindi tantissimi incontri giocosi con i ragazzi di quasi tutta l'età, insomma, sia della scuola primaria che della scuola secondaria. Certo. Allora, ci racconta proprio un po' il coinvolgimento del mondo della scuola, perché diciamo sempre che l'educazione finanziaria, essendo educazione, debba partire da lì. Anche il disegno di legge, appunto, di Bernardo vorrebbe muoversi in maniera un po' più significativa all'interno del mondo della scuola, ma insomma, il Museo del Risparmio che contributo dà in questo senso? Come accogliete le scolaresche e che opportunità date noi loro? Noi abbiamo materiale che non è solo diretto alle scuole o agli studenti, questo ci tengo molto a dirlo, perché secondo me l'educazione finanziaria non è solo per i ragazzi, è anche per gli, certo, adulti, che sono poi quelli che devono prendere le decisioni, devono decidere come allocare appunto la loro ricchezza. Però per le scuole organizziamo dei percorsi specifici, perché all'interno del museo ci sono moltissimi filmati, i contenuti sono numerosi, così come ci sono moltissimi giochi, quindi ci sono percorsi specifici a secondo dell'età. Quindi per i bambini, per esempio, delle elementari abbiamo dei percorsi sulla moneta con dei cartoni animati e poi un giochetto molto semplice che insegna il valore della paghetta. Se posso soffermarmi su questo, direi che è un elemento estremamente importante, perché la paghetta viene molto sottovalutata, sì, come idea di educazione finanziaria, no, in Italia. Noi anche questa settimana abbiamo rifatto con un educatore finanziario un po' le regole, vademecum al genitore che in realtà non si è mai approcciato con un po' di struttura mentale, diciamo, a questo argomento. Però in Italia, rispetto al resto del mondo, i genitori danno meno volentieri la paghetta, sì, ai propri figli, soprattutto in funzione di quello che può essere un piccolo perché lavoro. Perché i bambini spendono male questi soldi, per, no, quale motivo? No, forse per una motivazione più etica. I bambini non devono gestire soldi, ma questo è sbagliato. Ci sono diversi studi scientifici che mostrano che chi ha avuto la paghetta da bambino in realtà è un miglior gestore del proprio denaro da adulto. Quindi abbiamo un gioco interattivo, appunto, noi cerchiamo di far creare situazioni in cui c'è un'esperienza, dove i bambini possono guadagnare appunto la paghetta facendo dei piccoli giochi sempre virtuali, e poi questa paghetta possono decidere se risparmiarla, utilizzarla, e soprattutto in questa fase possono intuire che il risparmio è un risparmio fruttifero, quindi c'è un meccanismo di, diciamo, di aumento dei soldi messi da parte. Perché anche questo, per questo sì, comportamento perché virtuoso. Il salvadanaio è importante, ma non è il modo in cui si deve risparmiare, questo deve essere anche molto chiaro. Noi risparmiamo perché vogliamo mettere a frutto quello che risparmiamo rispetto a un obiettivo. Anche qui il Museo del Risparmio cerca di passare il concetto che il risparmio non è avarizia, è la libertà di creare un progetto, di finanziare un progetto, quindi è una cosa ben diversa dal, certo, mettere sotto il materasso. Non è il modo più sicuro per tenere tra i soldi. Lo sa cosa pensa un ascoltatore? Perché i genitori non insegnano? Perché vogliono gestire loro tutto fino alla vecchiaia. Spero che non sia il suo caso, però può darsi che sia questo, però di fatto statisticamente in Italia questa è la situazione. Certo. Invece sarebbe molto importante, quindi noi li facciamo giocare, li facciamo realizzare dei piccoli business plan per raggiungere il loro obiettivo. Per gli studenti più grandi abbiamo dei giochi che insegnano che cos'è l'inflazione. L'ultimo rapporto Consob dice che circa il 57% degli adulti italiani non sa cos'è l'inflazione e qual è l'effetto dell'inflazione sui loro rendimenti. Le famose nozioni di base. Il tasso di interesse reale, adesso abbiamo avuto prima una domanda sui rendimenti, in realtà è qualcosa di sconosciuto, quindi la maggior parte delle persone fa riferimento al, certo, rendimento dell'attività finanziaria in termini nominali, non sapendo che l'inflazione te lo mangia un pochino. Il tasso di interesse reale, perché l'inflazione può mangiarsi tutto. Durante la fase in cui i BTP rendevano il 12%, esatto, l'inflazione era altrettanto a due cifre, per cui un po' come la situazione odierna, i tassi sono a zero e l'inflazione a zero. Esattamente, quindi questo può sembrare difficile da comprendere, in realtà è, certo, molto più semplice, bisogna avere la pazienza di spiegarlo e di mettersi lì anche a capirlo bene. Tra l'altro anche il rendimento la relazione fra rendimento e rischio è sempre positiva, anche questo va spiegato ai risparmiatori, che chiedere un rendimento alto significa correre rischi. Attualmente il tasso privo di rischi è zero, quindi non c'è alternativa. Molto chiara, molto chiaramente. Dobbiamo andare a sentire anche il traffico adesso, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Cuore e denari. Non c'è un quizzettone oggi, ma un invito a inviarci la vostra foto d'epoca, tra virgolette, o la foto del vostro oggetto d'epoca che avete in casa. Ma lo conservate ancora? Un salvadanaio oppure un bel portamonete, magari divertente? Insomma, inviateci le vostre foto. A nostro insindacabile giudizio manderemo la nostra guida, il nostro glossario di educazione finanziaria elaborato dalla Global Thinking Foundation, appunto a quelli che reputeremo essere le immagini più significative o più belle. Naturalmente, come sempre, ci sforzeremo di premiare tutti o quasi tutti, perché non siamo poi tanto oggettive, ecco, nel trattare i nostri ascoltatori. Inviateci le vostre immagini o su Facebook, se volete, anche a cuore denari @radio24.it, o anche su WhatsApp, va al 349-238-6666. Una domanda a testa prima dei saluti ai nostri tre ospiti di Investire e Informati: Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, Marco Parlangeli nel CDA di Global Thinking Foundation, una lunghissima esperienza in tantissime istituzioni finanziarie, ho dovuto sintetizzare i suoi incarichi, peraltro ero rimasta in sospeso, e poi abbiamo Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio di Torino, oltre che economista. Ma tornando al suo blog, Parlangeli, so che lei nella elaborazione della sua guida all'investimento consapevole non l'ha fatta così, come dire, su base teorica, ma ha preso proprio a spunto alcuni casi concreti, in particolar modo due profili. Vediamo se ci si possono riconoscere i nostri ascoltatori. Sì, questo è un esempio che ho fatto per rendere più comprensibile il modello di comportamento che suggerisco, e anche per dimostrare come di fronte a due investitori diversi, diverso debba essere il tipo di scelte di investimento ottimali. In particolare io ho preso il caso di una coppia giovane con buon reddito ma patrimonio scarso, che vuole comprare casa e allargare famiglia, e speriamo che poi siano sempre più numerosi questi casi, anche se purtroppo l'attuale situazione di giovani tendeme a non essere consentire. Un pochino così, però sono pronti, guardi, loro stanno anche vivendo in questa consapevolezza un po' di tra virgolette, mi passi il termine, di precarietà. Quello che io dico sempre è che facciamo fatica noi della generazione intermedia ad abituarci a questo nuovo scenario che ci si sta parando davanti. Li stiamo talmente ossessionando sul fatto non avrete la pensione, non avrete risparmio, non avrete casa perché non avrete il mutuo, il lavoro non ci sarà, che loro sono pronti ad affrontare questo scenario in tempesta, molto più di noi che dobbiamo trasmettere loro invece un po' di sicurezza. Chiusa parentesi, Parlangeli. Condivido. E d'altra parte ho immaginato invece un cinquantenne ex manager, diciamo esodato, che ha perso il lavoro con buon patrimonio, elevato standard di vita e del tutto intenzionato a mantenerlo. Ecco, di fronte alla gradita novità di ricevere un'eredità di 100.000 euro, come dovrebbero razionalmente comportarsi i due investitori modello? Una delle prime conclusioni è che non si tratta solo di impiegare al meglio i 100.000, ma di rivedere, prendere l'occasione per rivedere tutta la propria strategia di investimento, dato che l'intero assetto patrimoniale viene in entrambi i casi modificato. Una volta definite le rispettive asset allocation strategiche, si tratta, e questo è il cherry picking di cui parla il titolo dell'articolo di questa settimana, di scegliere per ogni classe di investimento, azioni, obbligazioni delle diverse specie, polizze, eccetera, il prodotto migliore da acquistare, oppure affidarsi a gestioni passive attraverso fondi ed ETF. Come si vede, gran parte del processo deve essere gestito direttamente e consapevolmente dall'investitore, certo, e non dal consulente o dalla banca, con tutto il rispetto ovviamente per queste categorie. Anche per questo, e lei ne sa, assolutamente di questa categoria. Ci sono stato per tanti anni. Anche per questo è tanto più rilevante diffondere fra i cittadini una consapevole e corretta cultura finanziaria, che è proprio quello che in Global Thinking Foundation ci proponiamo di fare, iniziando appunto dalle scuole e dai giovani. Oh, mi raccomando, naturalmente, se andate a controllare questi due profili sul blog di Marco Parlangeli, poi non replicateli in maniera identica, perché ognuno deve fare le sue scelte a seconda dei suoi obiettivi finanziari, del suo status, del suo reddito, eccetera. Per cui ecco un invito, perché poi sa come qualche volta qualcuno vuole un po' emulare. Ma la cosa, diciamo, da notare che viene fuori, ed è un po' il messaggio che volevo dare, è che alla fine non si tratta solo di investire 100.000 euro, ma magari si tratta di disinvestire 20 e investirne 120, proprio per ridare un assetto adeguato alla nuova situazione con l'eredità che è arrivata. Certo. Allora, a proposito di eredità, c'è invece un'ascoltatrice di Bologna che, oltre ad averci chiamato, ci ha anche scritto al 349-238-6666. È una domanda molto delicata, veramente non so neanche se mandarla in onda. Ci proviamo, Maria, buongiorno. Ah, buongiorno, una domanda brevissima. Il TFR non un'eredità? Conviene aspettare dopo il 4? Eccola là. Allora, qua è tutto congelato, l'attività parlamentare, un po' siamo tutti adesso in attesa di questo. Allora, Segre, magari mi dica un po' lei, visto che con lei abbiamo fatto il ragionamento sulla relazione tra attività finanziarie e politica. Allora, questa ascoltatrice probabilmente avrà anche degli obiettivi di vita. Vale la pena adesso spaventarsi perché abbiamo questo appuntamento elettorale? Per quanto potrà rispondere anche la corrente del no e non ci saranno appunto le riforme che il governo Renzi auspica, detto questo, gli obiettivi di vita di Maria non cambieranno? No, come no, non cadrà ovviamente il governo, ci saranno le elezioni nel 2018, non è che succede qualcosa di tragico, ci sarà una volatilità, quindi ancora una volta quello che abbiamo detto fino adesso dipende dalla complessità del suo portafoglio e del suo patrimonio, delle sue esigenze, per decidere se essere in grado di affrontare questa volatilità che potrebbe seguire a un esito piuttosto che un altro, oppure fare serenamente la sua scelta, perché tanto è una strategia di medio-lungo termine, quindi assolutamente fatta in tranquillità. Però visto che l'evento così vicino, io tutto sommato aspetterei un attimo, se non ha urgenza o se non ha, diciamo così, un retroterra di patrimonio che le permette di poter operare tranquillamente. Intanto non vi dico quanti salvadanai ci stanno arrivando come foto, una marea. Fantastico. Sì, Giovanna Paradino è tutta contenta, queste foto di questi salvadanai io però li mette nel museo, naturalmente. Certo. E sì, adesso c'ho vicino a me Marco Lombardo che vuole mostrarmeli. Senta Paradino, concludo con lei, un invito ai nostri ascoltatori a venire a visitare il vostro museo, perché magari se ce la facciamo in 40 secondi poi ci faremo una puntata speciale, perché è un tema che a me è molto caro, sulla relazione tra donna e finanza, insomma tanti ambiti di miglioramento abbiamo nella nostra relazione con il denaro, anche venendo a visitare un po' il Museo del Risparmio per la Donna. Che cosa c'è? Beh, c'è molto, perché non è che abbiamo creato tipologie diverse, ma sicuramente esatto, una cosa. Non avete creato l'area rosa, no? Per carità. No. Però abbiamo creato dei workshop dedicati alle donne, perché ci sono degli aspetti che sicuramente le donne devono colmare, dei gap che devono colmare, soprattutto in termini di percezione del rischio e di avversione al rischio. Ma appunto non vogliamo parlare di questo, vogliamo dire cosa c'è al museo. Il museo è unico al mondo, perché è l'unico museo di educazione finanziaria. Esistono altri musei dedicati all'economia o alla finanza più o meno tradizionali, ma questo ha un solo scopo, che è quello di parlare di educazione finanziaria, e quindi quei concetti che servono a gestire bene il proprio denaro, non a diventare economisti. La nostra trasmissione di stamattina è terminata, ci manda il suo apprezzamento Marina, anche con la sua bella foto del suo salvadanaio. Ne avete mandati tanti, premieremo quanti più possibili. Grazie a Claudia Segre, Giovanna Paradino.